Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e undici minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la prima della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo dopo le 18 a borsa chiusa dell'effetto sui mercati, sulla borsa, ma in realtà anche sull'Europa, di quanto avvenuto ieri in Catalogna. Va detto subito che l'indice spagnolo non è crollato, per carità, però il calo è sensibile, anche perché è l'unico indice negativo. Perde l'1,50% l'Ibex in questo momento, mentre Parigi guadagna lo 0,30, Francoforte mezzo punto percentuale di rialzo, Londra più 0,70, Dow Jones più 0,30, Milano più 0,30. Quindi, vista la media, diciamo così, delle altre borse europee, il calo di Madrid si avvicina all'1,7-1,8%. Ripeto, non è un calo drammatico, ma è l'unica borsa in calo e anche in maniera significativa. Si è anche leggermente allargato lo spread tra i titoli di Stato spagnoli e quelli tedeschi a 124 punti. Faccio notare però che resta ampiamente al di sotto del nostro spread, che è a 175 punti. Comunque non è un caso, come abbiamo già raccontato, che i mercati si interroghino su cosa capiterà alla Spagna, visto che la Catalogna è la regione più ricca. Praticamente il 19% del PIL spagnolo si produce lì, sono 220 miliardi di euro, a circa 600.000 aziende con produzioni industriali mediamente più avanzate rispetto al resto del paese. E anche questo viene citato come uno dei motivi di questa forte ricorso e desiderio di indipendenza: il PIL pro capite di circa 30.000 euro, con una media spagnola che invece è di 24.000 euro. Ne parleremo più avanti per ragionare non tanto sulla cronaca. I nostri GR24 da ieri, a mio avviso egregiamente, e anche nello speciale, vi stanno aggiornando sull'andamento, su quello che sta capitando. Oggi la giornata è un pochino più tranquilla, l'ONU ha detto che farà un'inchiesta su tutte le violenze. Molto turbato il commissario europeo per i diritti umani Al-Hussein dalle violenze in Catalogna. Puigdemont ha chiesto una mediazione internazionale. La Commissione europea ha ribadito che è una questione interna alla Spagna e ha aggiunto però che la violenza non è mai uno strumento in politica. Dopodiché Tusk, il Presidente del Consiglio europeo, ha detto di aver parlato con Mariano Rajoy, condividendo le sue tesi costituzionali. Ha chiesto però di trovare un modo per evitare un'ulteriore escalation e uso della forza. Per quello che riguarda invece le altre notizie di questa giornata, partiremo anche con una notizia che fa il paio con quanto è avvenuto a Ryanair. O meglio, è fallita, tra virgolette, a sorpresa, la compagnia britannica low cost Monarch, che volava e operava anche sull'Italia da alcuni scali, dichiarata fallita nella notte e messa in amministrazione controllata. Un blitz avvenuto mentre nessun aereo era in volo, tutte le operazioni commerciali e la flotta è ferma. La conseguenza è 300.000 prenotazioni cancellate, 110.000 passeggeri che sono stati in qualche modo colti dalla notizia mentre si trovavano in cerca di un volo di ritorno, mentre dovevano rientrare a metà del loro itinerario. Tant'è che il governo britannico ha chiesto all'autorità dell'aviazione civile di provvedere a trovare almeno 30 charter. E sarebbe la maggior operazione di rimpatrio nel paese, visto che c'è anche il film su Dunkirk, ma insomma non c'entra nulla, ma la maggior operazione di rimpatrio in tempo di pace in Gran Bretagna. Faccio notare che domani di nuovo tornerà sul tema dei diritti dei viaggiatori Due di Denari, quindi con Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Falliti anche, chiaramente stop anche i voli di rientro dall'Italia. Le rotte coinvolte sono Roma, Napoli, Verona, Venezia e Torino. E poi invece gli altri paesi interessati sono Spagna, che era la principale destinazione di Monarch Non a caso la Spagna è la prima meta per, soprattutto per i viaggi low cost, ma non solo, dalla Gran Bretagna. E poi Portogallo, Francia, Grecia, Cipro, Croazia, Israele, Turchia, Svezia, Austria, Germania, Svizzera e Gibilterra. Il Foreign Office, il Ministero degli Esteri britannico, l'ha definita una situazione senza precedenti. Quindi c'è poco da scherzare sulla vicenda, perché è obiettivamente il fatto che questo arrivi a una settimana, poco più di una settimana dal caso Ryanair e dal caso Air Berlin, che ha chiesto un prestito ponte, sono tutte compagnie low cost che vanno in estrema difficoltà. C'è anche chi si è spinto a dire che questa leggera ripresa economica, che c'è, più robusta nel resto d'Europa, sta mettendo in crisi il modello low cost, che diciamo aveva conosciuto un forte sviluppo anche anche per via della crisi economica degli ultimi anni. Ancora andiamo avanti con le altre notizie, riguarderanno oltre che i mercati anche l'editoria, perché questa volta ci occupiamo di Google, non per le tasse che paga o paga troppo poco, né per il fatto che spesso venga accusata di diffondere sul web contenuti giornalistici, danneggiando di fatto le testate a pagamento, i giornali e chi vende le notizie o cartacee o online, ma pagando con un abbonamento. Da quello che abbiamo capito, dopo mesi di esperimenti con il New York Times e il Financial Times, Google ha deciso di fare un passo indietro sul cosiddetto modello first click free, cioè a dire che tu avvii il primo gruppo di notizie gratis, e infatti concederà più flessibilità agli editori nel scegliere se e quanti articoli dare gratuitamente ai lettori prima che scatti l'invito ad abbonarsi, per capirci, e poi semplificherà anche la procedura per abbonarsi. Potrebbe essere diciamo che si chiama il nuovo modello flexible sampling, cioè che sta all'editore decidere quanti articoli vuol far leggere gratis prima di far scattare la richiesta di un pagamento. Potrebbe essere in qualche modo l'accordo o il punto di caduta in una contrapposizione molto forte che c'era stata non tanto in Italia quanto negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, anche anglosassone, tra Google e gli editori. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dalle altre notizie, mi riferisco in questo caso dalla borsa. Allora, tra i titoli oggi a Milano, UbiBank è in evidenza più 4%, ST Microelectronics più 3,8%, Ferrari più 2,30% come Ferragamo, Case New Holland, CNH Industrial più 1,70%, Prismian più 1,5% come Beeper, l'1,30% lo guadagna Exor, l'1,15% Banca Mediolanum. Chi cede oggi? Telecom Italia l'1,80%, Saipem l'1,15%, Banco BPM meno 0,90% come Fineco Bank. Euro, diciamo, non in rafforzamento, mettiamolo così, a 1,17,36, quindi sotto quota 1,18. Andiamo con le altre notizie in breve, fermo restando che la maggior parte delle notizie oggi fanno delle principali. Ma chi sei tu per dire che Google paga poche tasse? Ma andate, abbiamo fatto intere puntate, non lo diciamo noi, lo dice Francia, Germania, Spagna, Italia, i governi. Andate a vedere, devo riprendere i dati, se volete lo faccio, dove abbiamo Airbnb che paga 20.000 euro di tasse in Italia, abbiamo WhatsApp e soprattutto TripAdvisor, scusatemi, che pagava 180.000 euro di tasse in Italia. Insomma, comunque non voglio tornare sul tema. Vedo che qualcuno dice, ma insomma bisogna, ma perché bisogna pagare le notizie? Bloccate la libera circolazione delle informazioni. Guardi, le informazioni circolano in tanti modi, poi ne parleremo. Ritengo un po' strano il suo atteggiamento. Chiaramente io, facendo giornalista, vivo delle notizie, per cui però posso dire una cosa: ma perché la notizia deve essere sempre gratis? Non sto dicendo le due righe, adesso vedremo che cosa prevede questa flessibilità, Non è che quando lei va dal salumiere dice mi dia il primo mezzo etto di prosciutto gratis, poi vediamo se mangio anche l'altro mezzo etto. Ma che discorsi sono? Cioè, quando io chiamo un idraulico non è che mi ripari il primo rubinetto e dice se vuoi che te lo faccio gratis, gli altri quattro te li faccio pagare. Insomma, se sono frutto del lavoro di qualcuno, le cose si pagano, no? Andiamo avanti, dicevo, con le altre notizie, anche se oggi non ce ne sono tantissime, però ce n'è una che vorrei ricordare, riguarda i dati diffusi dall'Istat sulla occupazione e disoccupazione nel mese di agosto. Allora, la notizia è relativamente buona perché le percentuali sono ancora molto alte di disoccupazione. Quello giovanile scende al 35,1%, 0,2 punti in meno, e 2 punti e 2 rispetto all'agosto 2016, 2 punti e 2 in meno. Anche gli occupati salgono, 36.000 in più, sono sul mese 375.000 in più sull'anno. Crescono però i lavoratori a termine e scusatemi, e le donne, quindi l'unica fascia di età non coinvolta, ahimè, sono i 35-49 anni. C'è un nuovo record nell'occupazione femminile al 48,9%. Ripeto, i dati sono in miglioramento, ma ancora molto molto deboli e ancora non accettabili se parliamo di disoccupazione giovanile. Si conferma la tendenza che nei nuovi occupati i contratti sono quasi tutti a termine. O la stragrande maggioranza a termine. Questi dati li ha commentati oggi al microfono della nostra Alessandra Schepisi, la presidente del gruppo Eni Emma Marcegaglia, a margine di un forum Italia-Spagna che casca, diciamo, quanto mai a fagiolo, organizzato da Arel. Beh, intanto però va detto che se noi guardiamo il numero degli occupati oggi in Italia, siamo tornati ai livelli pre-crisi, no? Quindi, scusi, abbiamo creato 1 milione di posti di lavoro, quindi un po' di miglioramento c'è, ovviamente non è sufficiente, abbiamo ancora un tasso di disoccupazione alto, questo è un problema di cui parleremo anche oggi, la Spagna ha addirittura un tasso di disoccupazione più alto del nostro, c'è il tema fondamentale della disoccupazione giovanile, quindi secondo me i dati di creazione di posti di lavoro ci sono, chiaramente non è sufficiente. Ancora una notizia che riguarda le dichiarazioni del numero uno della Fiat, Sergio Marchionne, che ha detto due cose, a mio avviso, degne di nota. La prima, che le auto elettriche possono sembrare una meraviglia tecnologica, soprattutto per abbattere i livelli di emissioni nei centri urbani, ma si tratta di un'arma a doppio taglio, ha aggiunto Marchionne durante la lezione magistralis per la laurea ad honorem a Rovereto. Forzare l'introduzione dell'elettrico su scala globale senza prima risolvere il problema di come produrre l'energia da fonti pulite e rinnovabili rappresenta una minaccia all'esistenza stessa del nostro pianeta. E poi, a margine, rispondendo a alcune domande dei giornalisti, gli è stato chiesto quando quoterà la Magneti Marelli. Ha detto Marchionne: lo spin-off di Magneti Marelli lo porteremo avanti il prossimo anno. Oh, vedo che alcune mi stanno scrivendo sulle notizie. Le notizie le paghiamo già scansando la pubblicità, che in Italia è estremamente invadente. No, ma guardi, si figuri, la radio lei la ascolta perché noi viviamo dalla pubblicità, mica facciamo pagare per l'ascolto. Ci mancherebbe. Si sta solo dicendo, poi ne parleremo, se sia corretto che Google e altri motori di ricerca si appropriano di un lavoro fatto da altri, lo mettano in rete gratis, o se invece si stia all'editore, quindi a chi ha messo i soldi per fare quel lavoro, decidere quante notizie vuole mettere gratis. Uno può anche decidere che per invogliare il lettore ad andare poi sul sito online o a comprare il quotidiano, il settimanale, il mensile, il cartaceo, può anche metterne tante. Il problema è dare la possibilità all'editore, come a qualunque azionista, di decidere, e non che sia Google a decidere quante ne mette gratis sul sito. Dunque, la pubblicità che vedete, abbiate pazienza però, quando andate a cliccare, se stiamo parlando delle notizie gratis di Google, non quando tu entri nel sito di qualcuno e che raccoglie pubblicità, ma lì è già diversa la cosa, non va in tasca agli editori. Se poi uno entra sul sito, diciamo, del Sole 24 Ore, così parlo in casa, è chiaro che la pubblicità che c'è lì entra nella raccolta pubblicitaria del gruppo Sole 24 Ore. Stiamo parlando degli aggregatori di notizie gratis, quelli che chiunque di voi può trovare quando va su Google. Comunque, ancora un attimo di pazienza, perché vorrei partire subito dal primo tema, e quindi l'ennesima crisi nel trasporto aereo low cost. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Pochi fanno inchieste degne di nota. Va bene, non leggete i giornali. Io non so, mica non deve leggere i giornali perché gliel'ha ordinato il medico. È molto meglio affidarsi alle notizie che circolano in rete senza nessun tipo di controllo sulla fonte. Ma va bene così. Si sta parlando del rapporto tra Google e del rapporto con gli editori a partire dai grandi colossi americani. Allora, nel caso suo Barisoni la paga Confindustria che decide il taglio editoriale, nel caso della Rai paghiamo nostro malgrado noi per avere informazioni indirizzate senza voce in capitolo. Ma tutto bene, guardate, mica sto aprendo un dibattito sulla l'oggettività dei giornalisti in Italia, ma figurate se mi metto a fare una cosa del genere in onda. Due precisazioni: a me paga solo 24 ore e solo 24 ore, nel caso specifico la radio, i soldi, i ricavi li ottiene unicamente dalla pubblicità, per cui abbia almeno la cortesia di citare correttamente chi è il mio datore di lavoro. Gli azionisti del Sole 24 Ore sono pubblici, tra cui c'è anche Confindustria con il 67% del capitale. Poi non so che lavoro faccia lei, sarei interessato nel vedere quando il suo capo le dice di fare qualcosa, se lei e cosa obietta, però vabbè, ognuno risponde di quello che fa nella vita. Stiamo ragionando se del rapporto tra i grandi motori di ricerca e i colossi del web rispetto a chi produce le notizie. Tutto qui, non della qualità, immagino per alcuni di voi schifosa, della stampa in questo paese, ma ci mancherebbe. Infatti avete la possibilità anche di scriverlo, e in alcuni casi li leggo pure, non posso leggerli tutti. La libertà di stampa in Italia non esiste, ecco, ma no. Infatti noto anch'io tutti i giornali che ho in mazzetta, tutti uguali, uno all'altro, tutti uguali. O mi vorrà dire che forse ce n'è uno che è solo libero, che ognuno di noi ha il suo giornale libero, vabbè dai. Ali spezzate, non cuori spezzati, ali spezzate. Insomma, quella di Monarch non è una cosa da poco, perché in Italia forse non era così conosciuta, anzi sicuramente come Ryanair o EasyJet o altre compagnie, però Monarch ha interrotto anche i collegamenti con Roma, Napoli, Verona, Venezia e Torino. 300.000 passeggeri coinvolti, 300.000 prenotazioni già fatte, ma 110.000 passeggeri che sono stati colti dalla notizia arrivata ieri notte, quando i voli non erano operativi, mentre erano già nelle loro mete, cioè gli manca il viaggio di ritorno. Tant'è che il governo britannico ha chiesto alla CAA, che è l'autorità dell'aviazione civile, di provvedere a trovare almeno 30 charter per condurre in porto quella che il ministro dei trasporti Chris Grayling ha ammesso essere la maggiore operazione di rimpatrio in tempo di pace. La flotta è ferma, è tutta a terra. Monarch fu fondata 50 anni fa, aveva 2100 dipendenti, 6.300.000 passeggeri trasportati, volava dagli scali classici in Gran Bretagna per il low cost, quindi Gatwick, Luton, Birmingham, Leeds, Bradford e Manchester. È la quinta compagnia aerea britannica per grandezza, cancellati anche i soggiorni, perché faceva anche da agenzia di viaggio, cioè ci dava il volo e trovava anche l'albergo. Cancellati anche i soggiorni proposti dal gruppo. Ha perso l'anno scorso 291 milioni di sterline, era di proprietà ed è di proprietà al 90% del fondo di investimenti Greybull Capital. A pesare sui conti anche il crollo della domanda sulle rotte da e per Egitto e Turchia, su cui loro erano molto forti. Andrea Giurricin, docente di economia e trasporti all'Università Bicocca di Milano e autore di un volume, di un libro che si chiama Alitalia, la privatizzazione infinita. Buonasera. Buonasera. Spero di non aver storpiato il suo cognome, Giuricin, giusto? No, va benissimo, è giusto. Ok, allora, senta, ma che sta capitando? Intanto vorrei un commento sul modo, l'operatività utilizzata. Insomma, loro nella notte dichiarano il fallimento e la messa in amministrazione controllata. L'hanno fatto con un blitz mentre nessun aereo della società in volo, ma questa mattina 300.000 persone, ma soprattutto 110.000 passeggeri che si trovano già in questi luoghi, hanno scoperto di non avere più il volo di ritorno. Sì, esattamente, il tipico fallimento di una compagnia aerea, purtroppo. Le compagnie aeree, quando falliscono, lasciano molto spesso, è successo anche in casi italiani, pensiamo a Winjet, i loro passeggeri nelle destinazioni, diciamo, lontane da casa. Quindi questo è il tipico modo di fallire delle compagnie aeree, e proprio per questo il governo britannico, tramite la CAA, ha deciso di intervenire per mettere a disposizione questi 30 aerei per riportare a casa questi turisti che si trovano appunto distanti. Ma lei l'avrebbe, adesso, per quello che vale la nostra valutazione, l'avrebbe fatta in questo modo? Cioè non si poteva creare un'operazione un pochino più morbida, visto che adesso devono noleggiare 30 charter, prego? Non sono così sicuro, nel senso, l'altra soluzione è quella adottata da Air Berlino all'Italia, di cercare di salvare la compagnia, però qua significa mettere soldi pubblici, grandi quantità di soldi pubblici, per l'Italia ricordiamo sono 600 milioni di euro, per cercare di mantenere in vita una compagnia aerea. Però se questa fallisce è normale che da un momento all'altro finisca le proprie operazioni, quindi di fatto si ritrovi in questa situazione. È chiaro che il governo deve intervenire, come è intervenuto il governo britannico, per salvare questi, tra virgolette, questi passeggeri. Allora, dopo il metodo e la pubblicità, vorrei capire invece che cosa sta succedendo. Può essere solo un caso, ma nell'arco di un mese abbiamo avuto Berlin, scusatemi, oggi la mia voce non è di grande qualità, Berlin in Germania, e poi Ryanair, che non è fallita, ci mancherebbe, ma ha avuto un problema enorme, anche un danno d'immagine, abbiamo raccontato molte volte, e adesso anche Monarch. Qualcuno dei suoi colleghi ha iniziato a scrivere, ma forse con una ripresa economica un po' più forte, non tanto in Italia, dove pure è più forte delle attese, ma nel resto d'Europa viene meno il modello, o subisce dei colpi il modello low cost, perché tendenzialmente era un modello anche che era esploso durante la crisi economica e finanziaria 2009-2010-2011. Nel caso di Monarch però sembra più un problema di geopolitica, cioè nel momento in cui tu sei forte su Egitto e Turchia e quei due paesi subiscono, per motivi legati alla sicurezza, al terrorismo e quant'altro, un crollo nelle prenotazioni, non si può imputare tanto il modello low cost quanto il tuo core business, possiamo dirlo così. Vorrei sapere cosa ne pensa lei dopo meteo e pubblicità. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti, dunque, Andrea Giuricin, quale delle due, casi specifici per Ryan, Monarch e Berlin, o oltre ai casi specifici un modello come quello low cost che inizia a scricchiolare? Beh, in realtà non parlerei troppo di problema delle compagnie low cost. Vediamo Ryanair, che ha commesso un errore gravissimo e ha peggiorato di molto la propria immagine del brand. Ryanair continua a fare grandi utili, molto probabilmente chiuderà anche quest'anno con 1,5 miliardi di euro di utile, però nel caso di Monarch invece è un po' differente, perché come giustamente ricordava lei, c'è prima di tutto un problema di destinazioni, cioè sono crollate le destinazioni dove era forte la compagnia, e poi Monarch era una compagnia relativamente piccola, faceva poco più di 5 milioni di passeggeri e si trovava sul proprio mercato domestico, quello più forte diciamo, si trovava la concorrenza proprio di Ryanair e EasyJet, e quindi di fatto aveva dei forti concorrenti proprio in casa, e per questa ragione aveva dei grandi problemi. Air Berlin al contrario non è una vera low cost, era più una compagnia charter modificata in una compagnia tradizionale, quindi di fatto è un modello ancora differente. Quindi io parlerei più di problemi delle singole compagnie piuttosto che di problemi del low cost. Quindi non c'è, e quindi non condivide l'analisi fatta da alcuni suoi colleghi che dicono mai nel momento in cui la crisi morde meno il modello low cost va più in crisi? Beh, se guardiamo negli ultimi 20 anni, in realtà il low cost è cresciuto tantissimo grazie alla liberalizzazione, cioè sia nel momento in cui andava bene l'economia sia quando l'economia è andata meno bene. Di fatto le compagnie competitive continuano a crescere. Ryanair, ricordo sempre, nel 97 aveva 5 milioni di passeggeri, l'anno scorso ne aveva 120 milioni, è cresciuta tanto, così come anche EasyJet, un altro caso di successo. Però è chiaro che le compagnie più deboli, tradizionali e low cost, escano dal mercato. Perché? Perché il mercato è molto competitivo e le compagnie più deboli muoiono e di fatto sono obbligate a uscire dal mercato. Allora, quindi mi sembra appunto un caso circoscritto. Secondo lei, giusto per capire, visto che me lo scrivono molti ascoltatori, come si chiuderà invece la vicenda di Monarch? Nel senso, verranno fatti questi rimpatri e basta? Cioè, perché insomma, il tema sono 300.000 prenotazioni oltre che 110.000 passeggeri. Purtroppo quando falliscono le compagnie difficilmente potrà intervenire qualcuno. O si adotta, come dicevo prima, uno schema Air Berlin o all'Italia, dove sono intervenuti direttamente i governi, ma subito, immediatamente, per continuare le operazioni, o altrimenti quando viene a mancare proprio l'operatività, poi riprendere questa operatività sarà difficile. Arriveranno altre compagnie nel breve termine che sostituiranno Monarch su quelle rotte dove Monarch appunto è stata costretta a chiudere. Allora, grazie anche a Andrea Giuricin, docente di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano. Andiamo sulla borsa. No, sorrido perché insomma la settimana è lunga. Mi scrive un ascoltatore: oggi la Catalogna, domani il Veneto, Barisoni, Tasi, Mona. Sì, ho visto che hanno proposto anche la separazione tra Emilia e Romagna. Vabbè, oggi la Catalogna, domani Radicchio. Gli dico quello che l'ho detto già venerdì scorso. Andiamo sulla borsa invece. Per quello che riguarda Milano, più 0,51, Madrid, ne parleremo dopo, meno 1,21% nel finale, Dow Jones più 0,35, Francoforte più 0,60, Parigi più 0,40, Londra più 0,80%, UbiBanca bene, più 4,33%, ST Microelectronics più 3,5%, Ferrari più 2,60, Ferragamo più 2,40, Case New Holland più 1,80 come Prismian, Biper più 1,70, e poi Exor più 1,6, Banca Mediolanum più 1,4, l'1,3 lo guadagna Buzzi, Unicem l'1,2, Snam. Telecom meno 1,80, Saipem meno 1,1, Banco BPM meno 1%, Yux Net-a-Porter meno 0,60%. Come sentite, non c'è stato un andamento, diciamo così, omogeneo nel comparto bancario, però. E poi le parole di Marchionne invece hanno mosso il titolo Fiat. Oggi il commento lo facciamo con chi opera tutti i giorni sui mercati, ogni tanto cambiamo. E bentornato a Filippo Diodovic, strategist per IG Italia, buonasera. Buonasera a tutti. Mi dicano, intanto vorrei un commento dall'operatore di borsa sul referendum catalano, poi andiamo ai singoli titoli. Sì, Madrid oggettivamente, con borse che guadagnano mezzo punto percentuale, perde l'1,20, ha avuto un calo, se vogliamo fare questo calcolo, intorno all'1,6-1,7%. Sì, è vero questo. Dobbiamo tener conto che i mercati vivono in questo ultimo periodo delle condizioni economiche molto positive. Wall Street su nuovi record, l'indice tedesco che si avvicina a record storici, e questo ha portato un po' Madrid a limitare i danni, perché comunque il referendum ha avuto delle conseguenze, soprattutto anche dell'obbligazionario. Abbiamo visto come ci sia stato un aumento dello spread. Al momento quindi ancora non ci sono tante preoccupazioni, però ecco, vediamo un po' come sarà, poi come evolverà la situazione anche da un punto di vista politico nelle prossime settimane. Sì, e questo comunque vedremo, soprattutto se già domani la borsa avrà riassorbito questo calo. Venendo ai temi di casa nostra, Fiat che rimanda per voce di Marchionne lo spin-off, quindi il collocamento in borsa di Magneti Marelli al 2018, e poi abbiamo visto un andamento, diciamo, delle banche abbastanza contrastate. UBI molto bene, Banco BPM perde l'1%. Sì, è stato, diciamo, però iniziamo da Fiat Chrysler con Marchionne, che oggi ha dato molte informazioni per quanto riguarda gli spin-off, se ne è parlato molto nelle scorse settimane. È stato rimandato quello di Magneti Marelli probabilmente nel 2018, mentre per quanto riguarda Alfa Romeo e Maserati se ne riparlerà nei prossimi anni, visto che al momento secondo Marchionne non sono ancora pronte per lasciare, insomma, la casa madre. E molto importante saranno anche poi le vendite di auto che saranno pubblicate in questo momento, quindi ecco, aspettiamo, insomma, anche per Fiat Chrysler un titolo molto importante, soprattutto per la seduta in apertura domani. Le banche si sono mosse in maniera molto contrastata, anche perché sono stati pubblicati dei report da importanti banche d'affari che hanno dato, insomma, dei giudizi anche per questo contrastanti sul settore bancario, quindi molto bene UbiBanca che ha ricevuto delle ottime raccomandazioni, mentre ecco, per Banco BPM sta un po' retrocedendo, però insomma, per quanto riguarda Banco BPM era una di quelle del settore bancario italiano che salite di più negli ultimi mesi, quindi anche, insomma, una flessione era anche da considerarsi, era ancora da considerarsi fisiologica. Ecco, oggi è sbarcata in borsa un'altra matricola, è la 29esima da inizio anno, la nona sul mercato principale. Si tratta della GIMA TTT, che è la società del gruppo IMA, e quindi macchine automatiche per il packaging, Colosso Emiliano, la IMA, operante appunto nel settore delle macchine automatiche per il packaging dei prodotti derivati dal tabacco e i cosiddetti prodotti di nuova generazione. Non a caso c'è uno stabilimento importantissimo, che è uno stabilimento che serve tutta la produzione a livello mondiale. Se non ricordo male, ce n'è un altro in Giappone delle nuove sigarette della Philip Morris, ne abbiamo parlato molte volte, ed lo stabilimento è in provincia di Bologna. Ma al di là del titolo, mi sembra che quest'anno non vi possiate lamentare, 29 matricole da inizio anno, Diodovic. Sì, GIMA TT comunque è il migliore, dopo Biancamano che fa il 39,44%, GIMA ha fatto il 22,40% di rialzo. Prego. Sì, per quanto riguarda GIMA TT, sembra gli investitori puntano molto per quanto riguarda le realtà industriali italiane di successo. GIMA TT, che come sappiamo è tra i leader di mercato nella propria nicchia, nel proprio settore, ed è vero che quest'anno le matricole sono salite in modo vertiginoso, ma come detto in precedenza sono cambiate le condizioni economiche per quanto riguarda l'industria italiana e il mercato di borsa. Lo vediamo anche oggi, sono stati pubblicati gli indici PMI che sono indici prospettici per quanto riguarda l'andamento dell'economia, e hanno mostrato delle ottime prospettive, sono arrivati su livelli che non si vedevano nel 2011 in Italia, quindi sembra, è sempre presto per dirlo, ma sembra veramente che la crisi sia passata e comunque ci siano dei concreti prime indicazioni di ripresa importante. Vedremo se riusciremo a proseguire, però ecco, i dati stanno confermando che qualcosa si sta muovendo. Allora, i migliori li ho detti, i peggiori invece sono Trevi Finanziaria meno 17,5, Tribù meno 13, Accelero meno 7,20, Expert System meno 6,34%. Grazie anche a Filippo Diodovic, strategist di IG Italia. Dopo il traffico parliamo dell'accordo che Google vuole proporre ai grandi gruppi editoriali. Ripeto, non c'entra nulla sul fatto che voi paghiate o no le notizie, e quello che è semplicemente un accordo che dovrebbe dare maggiore autonomia ai gruppi editoriali nel decidere quali notizie sono gratis e quali no. Uno può anche decidere di mettere tutte gratis o il 70% gratis, perché ritiene che in questo modo magari viene a contatto, a conoscenza con il media. Il New York Times, magari il Wall Street Journal o quotidiani più prestigiosi possono dire no, ti do solo una notizia, il resto all'inizio. L'importante è che venga data la possibilità a chi le notizie le produce e paga per produrre, non certo a Google. Dopo il traffico. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Focus Economia. capito che piace la base nuova, adesso possiamo anche cambiarla, grazie. Allora Google punta a un accordo e quindi a concedere più flessibilità agli editori nello scegliere se e quanti articoli dare gratuitamente. Dopo mesi di esperimenti con New York Times e Financial Times ha fatto un passo indietro sul cosiddetto first click free, cioè un modello che richiedeva, per avere visibilità ai vari gruppi editoriali, di mostrare 3 articoli gratis al giorno prima di sbarrare la lettura. Il nostro Enrico Pagliarini, che vuol dire la voce tecnologica di Radio 24, 2024, tutti i fine settimana, buonasera. Buonasera a voi. Allora, questo vuol dire sostanzialmente che l'editore potrà o mantenere il first click free o decidere di mandare solo un articolo gratis o nessun articolo gratis? Allora, l'editore potrà, in base a questo accordo, fare un po' quello che gli pare. Questo è il primo punto, cioè maggiore flessibilità. E poi Google punta a collaborare di più con gli editori per cercare di raggiungere nuovi lettori, fare crescere gli abbonamenti, perché Google ha capito che, così come ha capito del resto il mercato, che i ricavi della pubblicità online non riescono a coprire i costi delle grandi testate giornalistiche. Ci sono siti che riescono a vivere di pubblicità online, ma sappiamo benissimo che il giornalismo di qualità, quello che deve fare approfondimento, non riesce a vivere di sola pubblicità e quindi deve fare pagare i lettori. Però far pagare i lettori non è facile, ma c'è un altro aspetto importante su cui Google vorrà collaborare, perché anche quando un lettore è disposto a pagare, questo processo di pagamento non è che facile, perché se tu vuoi comprare un articolo o ti vuoi abbonare per una settimana, non sempre è facile abbonarsi. Allora Google dice: collaboriamo, cerchiamo nuove strade, sfruttando anche le competenze tecnologiche e i dati che Google ha. Poi vedremo fino a che punto Google metterà a disposizione degli editori questi dati, queste competenze tecnologiche, ma anche per far comprare ad esempio un articolo, cosa che è molto, molto difficile oggi. Poi gli editori decideranno. Questa operazione, questa sperimentazione è partita già con questi grandi editori che tu hai ricordato, sta partendo negli Stati Uniti e con alcuni editori selezionati in Europa, e dovrebbe essere a regime a partire dal 2018, quindi vedremo se questo servirà per far crescere il business degli editori online. Però il problema rimane, e il rischio anche in questo caso, è che comunque la parte principale della fetta, comunque la fetta principale della pubblicità online, se la pigli Google, e per gli editori rimanga sempre poco. Comunque si tratterebbe di passare dal modello appunto first click free, in cui Google, se tu volevi essere segnalato da Google, finire sull'algoritmo, diciamo, dovevi dare almeno 3 articoli gratis al giorno, con un modello chiamato flexible sampling, e quindi lascia a te la possibilità appunto flessibile nel sampling. Nell'esempio Google, se ho ben visto, suggerisce di concedere almeno 10 articoli in chiaro al mese prima di far scattare il paywall, cioè il pedaggio, per accedere alle altre notizie. Vorrei capire però altre novità su questo, e qual è il punto di vista delle testate, perché ho visto che ci sarà anche il Big G che userà l'apprendimento automatico per aiutare gli editori a riconoscere potenziali abbonati, e soprattutto se questa può voler dire il calumet della pace, la pace tra editori e Google, che da sempre hanno avuto rapporti molto tesi, ripeto, non tanto in Italia, ma soprattutto i grandi colossi americani. Ti chiedo un attimo di pazienza, come tu sai, visto che fai anche il caposervizio in questa radio, abbiamo GR24. Aspettiamo. Assenti, ma a loro modo presenti, impegnatissimi, ma che poi si impegnano ad esserci. Attenti, ma tanto distratti, volenterosi, ma un po' impacciati, autorevoli, ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo. È padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia, la domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Per fortuna che ci sono. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. 18:08, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Dunque, vedo molti messaggi. Guardate che il tema non è la qualità dell'informazione cartacea o digitale. Uno la può pensare come vuole. Qualcuno mi scrive, beh, quando farete inchieste vere inizierò a pagarvi. E un altro mi dice, insomma, no, quando farete informazione senza raccontare balle pagheremo anche per i vostri, è finita la pacchia. Ma uno, cioè anche prima, quando non c'era digitale, uno il giornale lo comprava se voleva, se no non lo comprava, lo leggeva al bar, non lo leggeva neanche al bar, va bene così. Qui non è in discussione se tu debba o no leggere le notizie su internet. Il punto, se ho ben capito con Enrico Pagliarini, è che mentre prima era Google a decidere, a imporre praticamente quante notizie gratis, tutte le testate dal New York Times, dal Financial Times, dal Sole 24 Ore, alle Figaro, potessero mettere gratis prima di iniziare col paywall, adesso saranno gli editori a decidere se ne mettono una, due, tre. Tant'è che Google suggerisce di mettere, almeno 10 articoli in chiaro al mese. Sì. Poi spieghiamo anche che questo vale per tutti quelli che si fanno tracciare da Google News. Uno può anche decidere, un editore, così come ad esempio hanno fatto gli editori spagnoli, che hanno fatto chiudere Google News in Spagna, può decidere di non stare all'interno del motore di ricerca. Di però Google, visto che il motore di ricerca ti porta tanto traffico, diciamo il 90-95% degli editori del mondo accetta di stare su Google News. Quindi vale per quel mondo lì, quel perimetro, ok? Ecco, che cosa è invece il passaggio sul Big G che userà l'apprendimento automatico, si chiama in inglese machine learning, per proporre agli editori l'offerta giusta? Sì. E tra l'altro vorrei anche ricordare, ma precisalo tu, che visto che molti mi scrivono, ma come c'è già la pubblicità, a parte che la pubblicità, bisogna vedere se è sul sito del giornale oppure se è quella di Google, ma la pubblicità da sola non riesce a pagare la produzione e distribuzione di giornalismo, di notizie di alta qualità. Comunque Enrico. Con l'approfondita, sì certo. Dunque, il tema del machine learning è all'interno del grande tema dell'intelligenza artificiale. Google ha tantissimi dati su quello che noi facciamo online, su che cosa visitiamo, su dove andiamo, perché vorrei ricordare che Android, il sistema operativo Android di Google, è sul... dipende dai paesi, dai mercati, dall'80 al 90% dei consumatori, e Google ti traccia, il sistema traccia dove vai. Tant'è che non a caso su Google dopo un po' di tempo ti viene indicato che un posto è casa tua e un posto è lavoro. E questa è intelligenza artificiale. Automaticamente il sistema dice, se tu tutte le notti arrivi in un punto e ci rimani per 8, 10 o più ore, e se di giorno rimani in un posto per 8 ore, beh, l'intelligenza artificiale fa 2 più 2, questo è un esempio facile, e il sistema capisce, quindi Google capisce che quella è casa tua e quello è il posto di lavoro. Sulla oppure, base oppure hai l'amante. Sicuramente Google sa se hai l'amante o no. Beh, insomma, l'importante è che lo sappia anche l'amante. Comunque andiamo avanti con la parte seria, scusami. Disattivare la geolocalizzazione in quel caso. Ecco, sulla base dello stesso principio, grazie ai tantissimi dati che ha Google, l'idea e la proposta che Google sta facendo agli editori, ad alcuni editori selezionati in questa prima fase, è quella di condividere una parte delle informazioni, mica tutte, una parte delle informazioni per fare delle proposte. Faccio degli esempi. Se tu frequenti certi luoghi, oppure se tu leggi determinate notizie, beh, io ti posso fare un'offerta magari nel giorno in cui esce uno speciale dedicato ad un luogo oppure ad un particolare argomento. In altri settori si chiama profilazione del cliente, è quello, no? Nel lì. Senso sì, sapere sì, quali sì, sono sì. I tuoi gusti, la grande mole di dati, esatto. che sviluppa la rete, se ben utilizzata e gestita, diventa un'arma assolutamente legittima e legale, commerciale potentissima. Perché altro che il gradimento che si faceva una volta compilando un modulo, chi lo voleva, certo, compilare, adesso perché... tu lo vedi dai miei acquisti online, dalla mia navigazione online. Anche perché tutti questi dati sono dati che i consumatori accettano di dare a, stiamo parlando di Google, ma anche tutti gli altri siti internet. Noi quante volte clicchiamo su accetta oppure ok? Dimmi solo una cosa, Enrico. Questa strada la perseguirà anche Facebook, che è l'altro diciamo contenitore di notizie sì. non a pagamento. Sì, Facebook ha anche lui cercato di collaborare con gli editori, con alcuni editori. La strada è un po', forse un po' più controversa. Comunque anche Facebook ha iniziato a proporre agli editori mm-hmm. una sorta di collaborazione per far sì che gli editori riescano attraverso Facebook a monetizzare i contenuti, quindi certo. sostanzialmente riuscire a fare in modo che uno si abboni o paghi i contenuti attraverso Facebook. Allora, grazie intanto a Enrico grazie. Pagliarini. Non rispondo agli ascoltatori, ognuno la pensi come vuole sulla qualità dell'informazione in Italia o a livello mondiale. Una cosa però mi sembra fuori discussione: il lavoro si paga anche quello dei giornalisti e si paga anche se legge le notizie, così come, ripeto, pago quello dell'idraulico, pago il salame quando vado a fare la spesa e via così. Adesso passiamo da un tema invece in qualche modo di un accordo a un tema che non c'entra nulla, il volo è abbastanza pindarico, dove tutto c'è tranne che un accordo. Le ripercussioni anche economiche, perché la borsa ha reagito male, la borsa spagnola, lo spread si è leggermente cresciuto. Di quello che è accaduto ieri a Barcellona, in Catalogna, scusatemi, cercando di distinguere tra cronaca, opinione politica che ognuno di voi può avere, lo dico a quelli che mi stanno scrivendo da Lombardo, Veneto, sull'indipendentismo, e in realtà anche la posizione. Perché ne parliamo da un punto di vista economico? Perché non sfugge a nessuno che la Catalogna è la prima regione economica della Spagna, da sola rappresenta quasi un quinto dell'intero PIL spagnolo, 220 miliardi di euro solo in Catalogna, oltre 600.000 aziende con produzioni industriali mediamente più avanzate rispetto al resto del paese, PIL pro capite anche qui di 30.000 euro, decisamente superiore ai 24.000 che sono la media del PIL pro capite spagnolo. Soy el fuego que... A esta hora puedo decirles con toda rotundidad. Oggi posso dire, in tutta convinzione, quello che tutti già sanno e che abbiamo constatato durante questa giornata. Oggi non c'è stato un referendum di autodeterminazione in Catalogna. Oggi tutti noi spagnoli abbiamo constatato che lo Stato di diritto mantiene la sua forza e la sua vigilanza, che risponde a chi gli va contro. Che risponde a quienes lo contravienen. Soy el fuego que... Under the Spanish Constitution, yesterday's vote in Catalonia was not legal. In base alla Costituzione spagnola, il voto di ieri in Catalogna non è legale. Nell'ambito di una consultazione organizzata nel rispetto delle regole costituzionali, lo Stato che dovesse scegliere l'indipendenza sarebbe fuori dall'Unione Europea. Chiediamo alle parti coinvolte di passare rapidamente a una fase di dialogo e confronto. La violenza non potrà mai essere uno strumento di politica. Violence can never be an instrument in politics. Allora, nell'ordine abbiamo sentito prima Rajoy, il premier spagnolo, dice, che ha detto appunto ieri: oggi non c'è stato alcun referendum, il nostro Stato di diritto reagisce a chi vuole sovvertirlo. E poi invece il portavoce oggi della Commissione Europea, Margaritis Schinas, che ha detto: è una questione interna alla Spagna, la violenza non può mai essere uno strumento di politica e per la Costituzione spagnola il voto in Catalogna non è legale. Alberto Negri del Sole 24 Ore, buonasera Alberto. Buonasera a tutti voi. Ecco, fa un po' impressione utilizzare la tua voce, il tuo commento, non per l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria, territorio di cui tu sei uno dei maggiori esperti, o la Libia, ma per un paese dell'Unione Europea. Però tu hai scritto una cosa molto chiara dicendo: attenzione al rischio della balcanizzazione a livello europeo. Poi arriveremo anche su questo. Prima di arrivare al rischio balcanizzazione, un tuo giudizio su come ha reagito il governo spagnolo. Qui vedo gli ascoltatori dividersi in due. C'è chi dice: ma insomma, cosa doveva fare Madrid se un pezzo del suo paese decide di fare un referendum del tutto illegittimo? E altri dicono: attenzione, perché il metodo utilizzato, la polizia, gli scontri, gli 870 feriti e quant'altro, rischia di alimentare ulteriormente l'indipendentismo. Si poteva far finta di nulla, ritenerlo un atto così assolutamente irrilevante dal punto di vista giuridico, ma senza arrivare allo scontro. Ma io sarei più sulla seconda posizione che non la prima, perché avevamo un precedente che era quello del 2014, quando fu convocato un referendum analogo proprio in Catalogna e l'afflusso fu meno del 40% della popolazione, e quindi era chiaro che ogni mossa che in qualche modo fomenta l'indipendentismo e le posizioni radicali poi ovviamente coagula consensi per l'indipendentismo. Però la questione è profonda, cioè non è soltanto legata alla questione ha mandato la Guardia Civile, Rajoy è un personaggio da dubbia capacità carismatica e volta la testa dall'altra parte. Il problema è che la questione catalana è sul tavolo da molti anni e da molti anni la Generalitat catalana aveva chiesto un'autonomia fiscale che per esempio hanno i Paesi Baschi e la Navarra, e questa non era stata mai concessa, tant'è vero che il ministro dell'economia ha fatto capire nei giorni scorsi che il punto su cui si potrebbe negoziare è questo. Il problema è che davanti a due opposti radicalismi adesso trovare una via d'uscita è difficile. Allora, dopo il traffico invece vorrei sapere perché tu vedi capire perché tu vedi i rischi di una balcanizzazione, e fai notare nel pezzo su Sole 24 Ore di ieri che si comincia quasi sempre con l'economia e fai un riferimento molto forte alla Jugoslavia. Anche lì la disgregazione arrivò quando le parti più ricche del paese, tipicamente Croazia e Slovenia, decisero di che non volevano più pagare per quelle più povere. 349-238-6666 resta il numero per sms e whatsapp, anche per gli sms e whatsapp che non stanno in cielo né in terra. Lo dico a chi mi scrive praticamente Spagna, vergogna, vergogna, vergogna, è come la Turchia. Obiettivamente non sprechi i soldi per scrivere ste cavolate, perché se solo ha letto due cose sulla Turchia, sulla repressione feroce messa in atto da Erdogan, voglio dire, stiamo parlando di un altro film. Invece trovo interessante chi scrive: guardate che Galizia, Paese Basco e Catalogna non sono mai stati in Spagna se non nei sogni di Franco. Il problema è questo, a mio avviso, che se tu concedi una cosa alla Catalogna rischi di riaprire tutto un circuito che riguarda anche i Paesi Baschi e la Galizia. Comunque, dopo il traffico, la risposta e l'analisi di Alberto Negri. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Soy el fuego que... Dunque, Alberto Negri, i rischi di una balcanizzazione dell'Europa. Devo dire che, citando i vari messaggi che arrivano, c'è chi fa notare, sì, ma tutte le volte che c'è stato un processo di autodeterminazione dei popoli, che non è un processo che viene negato dalle democrazie occidentali, anzi, ricordiamo che la crisi in Jugoslavia, nell'ex Jugoslavia, si innescò anche perché a un certo momento Germania e Stato del Vaticano riconoscono, vado a memoria, riconoscono la Croazia, quindi c'è un riconoscimento anche diplomatico. Scrivono alcuni ascoltatori: beh, tutti i percorsi, i processi di autodeterminazione vengono osteggiati dal governo centrale, quindi dov'è la novità? Alberto. Beh, innanzitutto cominciamo dai principi e andiamo ai fatti. Quando si dice principio di autodeterminazione per la Jugoslavia, si dimentica che la Repubblica Federale Jugoslavia era formata da 6 repubbliche per le quali dentro la Costituzione Jugoslavia era prevista la secessione. La Costituzione spagnola, come sappiamo, ormai a memoria, non prevede la secessione. Il principio di autodeterminazione, anche dal punto di vista del diritto internazionale, è di solitamente applicato ai territori che hanno un'occupazione straniera. Non mi sembra il caso della Catalogna, come giustamente tu dicevi prima, qui si sta un po' esagerando, perché la Catalogna non solo ha una sua amministrazione, ma come abbiamo visto anche una sua polizia locale, cioè ha delle istituzioni che non mi sembrano esattamente quello di uno Stato, come dire, illiberale. L'altro principio, quello economico, è molto semplice, molto banale, ma purtroppo è un po' il nervo scoperto di tutti. E qual è? È che i catalani contribuiscono molto più degli altri con le proprie tasse al bilancio della Spagna, ma è anche vero che sono quelli che guadagnano di più, cioè sono i più ricchi. Il suo maggior contributo deriva dal principio della progressività. A una maggiore ricchezza corrispondono più tasse, come avviene per gli individui. è evidente che è un principio di solidarietà interregionale fra i popoli, fra le nazioni, che dovrebbe essere quello che guida un po' tutte le nostre mosse. Certo, i catalani hanno visto rifiutarsi l'autonomia fiscale e su questo hanno sicuramente ragione, ma quando si comincia a mettere in dubbio il principio della solidarietà, fate attenzione, perché allora sì che comincia la balcanizzazione dell'Europa e non si sa dove si va a finire. E in questo è simile ad altri temi. Qualcuno mi scrive: molto simile al tema della Lombardia e del Veneto. Attenzione, lì c'è un percorso completamente diverso, però la base, anche in questo caso, è di carattere economico, è poter trattenere il maggior numero di risorse possibile. Possiamo dire che comunque in questa vicenda sia Rajoy che Puigdemont si sono dimostrati, non voglio creare una tensione con l'ambasciata di Spagna, ma dei leader quantomeno deboli, oppure hanno sottovalutato quello che stava capitando? Perché Puigdemont adesso chiede la mediazione internazionale, Rajoy è sembrato non parlarne finché non ha mandato la Guardia Civile. Cioè, forse il compito della politica è anche non arrivare a quello che abbiamo visto ieri? Io faccio una semplice domanda, che è la seguente: la Spagna è un concorrente sui mercati dell'Italia, giusto? Certo. Quindi da domani, se venisse approvata l'indipendenza della Catalogna, il concorrente non sarebbe più un grande concorrente, la Spagna, ma sarebbero due. In questa situazione è evidente che gli spagnoli e i catalani si preparano a farci un regalo da questo punto di vista, perché si stanno indebolendo. Economisti e politici concordano su un punto: che comunque se la Catalogna diventasse indipendente diventerebbe meno ricca la Spagna, ma anche la stessa Catalogna affronterebbe dei gravi problemi. E poi ricordiamocelo, il 40% delle esportazioni catalane vanno sul mercato spagnolo. Attenzione, più si diventa piccoli e più diventa anche inferiore la propria capacità di negoziazione sulla scena internazionale. Vabbè, certo, insomma, adesso stiamo ragionando di fantapolitica, ma una Catalogna che dovesse negoziare a livello di Bruxelles avrebbe un peso decisamente e infinitesimamente minore rispetto alla Spagna. Faccio notare che non c'entra nulla, qualcuno mi scrive sulla Brexit, non mi sembra che la Gran Bretagna, almeno possiamo dire questo, da quando ha votato la Brexit stia vivendo un periodo tutto in discesa, ancora non ha capito come fare, quanto vuole pagare, come uscirne senza farsi male da sola. Intanto le multinazionali di carattere finanziario, ma non solo, si stanno organizzando e stanno trasferendo i loro quartieri generali. È ancora in mezzo al guado la Gran Bretagna, che stiamo parlando dell'ex impero britannico. Alberto, è difficilissimo fare previsioni in questi casi, ma secondo te come si risolverà? Una grande tensione, poi si siederanno attorno a un tavolo e cercheranno di dare, non dico un contentino, ma una misura che permetta di così levare un po' d'acqua dall'acquario dell'indipendentismo catalano? Bene, se si siedono a un tavolo, e questa sarebbe l'ipotesi più auspicabile, devono rivedere anche però la Costituzione spagnola, perché come tu hai giustamente accennato prima, se concede l'autonomia fiscale alla Catalogna, cominciano a catena tutti gli altri. Beh, certo. Anche perché abbiamo regioni in Spagna, simile all'Italia, che invece hanno un problema opposto, sono molto povere, penso all'Estremadura tipicamente, regioni che hanno una storia diversa, la Galizia o i Paesi Baschi, anche una lingua, o anche i catalani, ci mancherebbe, una lingua, e i baschi, l'etnia è diversa, quindi inneschi un processo però non sai più dove farlo finire. Qualcuno mi scrive: sì, ma noi per esempio abbiamo accettato tranquillamente che Sicilia, Val d'Aosta, Sardegna, Friuli, Trentino e Alto Adige avessero la loro autonomia e fiscalmente potessero trattenere più di quanto versano. Questo perché non siamo un popolo stupido. E attenzione, è che l'Italia ha affrontato il problema del Trentino Alto Adige, che negli anni 60 fra l'altro portò problemi come sei bene di il terrorismo. Bombarolo della Valpassiria, certo. Esatto, esattamente, i piloni che saltavano, eccetera. E come è stato trattato è diventato uno dei, forse l'esempio più chiaro e più evidente anche sul fronte internazionale di come si debbono trattare minoranze e autonomie. Il fatto che l'Italia lo abbia fatto in qualche modo non l'ha reso più debole, ma in qualche modo forse lo ha anche rafforzata l'Italia da un certo punto di vista, no? Il fatto che gli spagnoli non riescono a risolvere questo sistema E questo sistema dove loro convivono, perlomeno finora convissuto, è un grave problema per la Spagna. E lì però c'è l'idea di uno Stato spagnolo, anche lì parliamo di un ex, andremo troppo in là. Alberto, io ti ringrazio, ma probabilmente l'Italia, che è una nazione molto molto più giovane della Spagna, e probabilmente la Spagna stessa si sente nazione, ha più difficoltà culturali a accettare un indipendentismo così forte, mentre noi venivamo da un percorso molto diverso fatto da varie guerre di indipendenza e una guerra mondiale. Grazie ad Alberto Negri, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.